L'incontro del 28 di novembre che si va a inserire nella programmazione degli eventi organizzati all'interno del Festival della Violenza Illustrata ha come titolo Nuove narrazioni, la rappresentazione della violenza di genere attraverso le serie televisive. Quello di martedì è un incontro che appunto si focalizza su un prodotto mediale che negli ultimi 20 anni ha cominciato a ottenere tutta una propria visibilità e una segmentazione di pubblico specifico, e appunto che sono quelle delle serie televisive, che sono dei contenitori molto variegati che permettono la declinazione di tutta una serie di temi e che appunto sono riusciti a costruirsi nel tempo tutta una propria caratterizzazione. Quello che ci sembrava interessante, perché di serie televisive se ne parla, ma non se ne parla ancora moltissimo, era quello di mettere appunto un focus su come la violenza contro le donne venga rappresentata all'interno di questo tipo specifico di prodotti. E quindi è stato pensato il coinvolgimento di tre relatrici che appunto interverranno sul palco del cinema Arlecchino per discutere esattamente di questo tema. Queste tre relatrici sono Cristina De Maria, che è una docente di analisi dei linguaggi televisivi e semiotica presso l'Università di Bologna. Cristina De Maria è anche la delegata del rettore per quanto riguarda le tematiche di genere e della diversità di un IBO. Dopodiché avremo Eugenia Fattori, che è una critica cinematografica e televisiva, anche lei è un'esperta in comunicazione, è un'attivista e ha lunga esperienza nell'analisi di questo tipo di prodotti, e poi avremo Marina Pierri, che è una scrittrice ed è la cofondatrice e direttrice artistica del Festival delle Serie Televisive. Quindi tre studiose, tre persone che hanno un'ampia conoscenza di questo tipo di temi e che hanno il cui interesse ha intersecato da sempre anche appunto il loro interesse circa le questioni di genere, e in particolare appunto ci parleranno dei temi legati alla violenza. Ecco, racconterete anche come le serie TV possano rappresentare finalmente, direi, una nuova forma di narrazione anche femminista del fenomeno. Quali possono essere gli effetti positivi o negativi a seconda appunto della narrazione a cui magari spesso non pensiamo, ma che poi influiscono nella nostra vita, ecco? Certo, all'interno dei tre interventi cercheremo in una qualche maniera di ripercorrere quelli che sono alcuni dei trope, cioè delle modalità attraverso cui si replicano determinati stereotipi e determinati pregiudizi, ma anche cercheremo di capire come a questi trope si possono dare delle risposte differenti quando appunto vengono declinati in testi come quelle per esempio appunto delle serie televisive. Ciò che è importante è ricordarci che le serie televisive, così come altri prodotti culturali, concorrono alla costruzione di quelle rappresentazioni sociali che in una qualche maniera definiscono le modalità attraverso cui noi interpretiamo e diamo appunto significato a ciò che ci accade nella vita, e in particolare in questo caso al problema della violenza. Diventa quindi fondamentale cercare di rintracciare rappresentazioni che possono essere da una parte appunto a andare in una qualche maniera a sostenere modelli rappresentativi che parlano della violenza così come spesso viene rappresentata all'interno, no, dei prodotti mediatici. Dall'altra parte è anche importante cercare di domandarti quali possono essere rappresentazioni divergenti, ma anche come questi stessi trope vengono reinterpretati e ridefiniti all'interno delle serie televisive, magari appunto portando a degli sviluppi interpretativi diversi rispetto a quelli che magari contraddistinguono quel tipo di rappresentazione all'interno di altri tipi di testi. Ecco Chiara, ovviamente non voglio anticipare troppo gli argomenti di cui poi parlerete appunto il 28 al cinema Arlecchino, però ti chiedo magari di farci un esempio, un consiglio in questo caso anche di una serie TV che appunto affronta le tematiche con una certa ottica, ecco. Allora, gli argomenti di cui parleremo sono appunto legati soprattutto ad alcune dimensioni ricorrenti di violenza. Sono dimensioni ricorrenti di violenza come per esempio come viene impiegato il trope dello stupro all'interno delle serie televisive, o come agisce ancora oggi all'interno delle serie televisive la mostrificazione, no, del perpetratore della violenza. Questi sono argomenti che posso anticipare, verranno trattati nel corso dell'intervento del nostro incontro di martedì. E verranno questo tipo di appunto e negli interventi verranno citate numerose serie che in una qualche maniera usano questi trope, e verrà cercato anche di contestualizzare, di problematizzare il modo in cui il trope viene impiegato. Sicuramente diventa complicato definire una serie o anche solo un piccolo gruppuscolo di serie che in una qualche maniera mettono in scena la rappresentazione della violenza contro le donne in una maniera diversa, perché bisogna un po' pensare ai pubblici. A me verrebbe in mente per esempio Euphoria. Euphoria è una serie televisiva che in una qualche maniera ha un target molto specifico, ha un target giovanile, che è una serie che è violenta, ma che nella sua messa in scena della rappresentazione della violenza riesce a definire, no? Riesce in una qualche maniera a spiegarci. Non è una serie, è una serie appunto in cui la violenza è estremamente presente, ma allo stesso tempo viene anche altrettanto bene contestualizzata, si riesce a dare voci e in una qualche maniera a spiegare i percorsi dei personaggi subalterni che spesso sono vittime di questa violenza, e si cerca in una qualche maniera appunto di costruire una serie complicata e molto complessa, che però questa è solo un esempio fra i vari che si potrebbero in una qualche maniera fare nel momento in cui si interroga questo tipo di percorso, e magari appunto non sono quelli che noi daremo più per scontati, sono appunto serie in cui la violenza è estremamente rappresentata, è fortemente messa in scena, però il tutto è un po' la cornice di significato entro cui questa messa in scena si viene a in una qualche maniera concretizzare. Quindi il mio consiglio è quello di partecipare all'evento, perché verranno dati appunto numerosi spunti di riflessione che potrebbero magari talvolta anche sorprendere.